la città non mi lo come te. Io sono un poco di buono, lasciami un bacio per te. Sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei in un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace per te. Sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Sono un poco di buono, lasciami in pace per te.